Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Diciassette e otto minuti, inizia l'ultima puntata della settimana di Focus Economia. Allora, i temi di questa giornata economico-finanziaria: le tre streghe, questo è il giorno così battezzato sui mercati finanziari, The Three Witches. Tra l'altro è venerdì 17 settembre, per cui cade in maniera anche, diciamo, propizia il giorno delle tre streghe, ossia quando, cosa succede? Scadono molti contratti futures soprattutto, e in generale sugli indici, sulle opzioni e opzioni anche sulle azioni. Insomma, è un momento in cui si vanno a scadenza molti contratti, quindi il mercato può essere più sensibile, tra virgolette più fragile. Siccome si chiamano le tre streghe e oggi è venerdì 17, alcuni di voi vedo che hanno già capito al 349-238-6666 chi sarà il nostro primo ospite. Il ritorno dell'astrologa, così anche noi ci occupiamo delle tre streghe. I mercati come vanno? Mezzo punto percentuale di calo adesso a Milano, guadagnavano invece in mattinata, poi sono arrivati a perdere l'1%, tensioni anche e soprattutto sulla tenuta dell'Irlanda, lo spread, la differenza tra quanto rendono le obbligazioni irlandesi e, o meglio, anzi, quanto costa assicurarsi contro un rischio di default, di crack dell'Irlanda. Ebbene, il costo è salito a un livello molto alto, a un livello record, 428 punti, soprattutto perché pesa la situazione molto critica dell'Anglo-Irish Bank. E ancora, per quello che riguarda i temi di oggi, parleremo di Unicredit più avanti, perché i libici hanno ulteriormente aumentato la loro quota e già tornano i mal di pancia di, per esempio, del governatore del Veneto Luca Zaia, che ha detto: siamo di fronte a una scalata bella e buona dei libici, che vanno innanzitutto contingentati. Questo nel giorno in cui si è riunito a Verona il consiglio della Fondazione Cassa di Risparmio, che resta comunque il primo azionista italiano con diritto di voto su Unicredit, anche se ha ridotto ieri la sua partecipazione. Il fondo che è libico, che ha aumentato la sua quota, è il fondo Libyan Investment Authority, che è un fondo sovrano, cioè del governo libico, di Gheddafi, al 2,6% contro il 2% che aveva. E a questo punto, visto che dentro Unicredit c'è anche la banca centrale libica, appunto la banca centrale del paese, praticamente la quota libica è intorno al 7,6% di Unicredit, comprensiva di tutte le partecipazioni. Di questo parleremo, dicevo, così come della vicenda Italease. Qualcuno ricorderà il crack di Italease con quello che è costato ai risparmiatori che avevano investito e alle aziende che avevano utilizzato questo strumento. Ebbene, nella requisitoria di oggi il PM ha chiesto 5 anni per Faenza. Di questo parleremo. 349-238-6666, dicevo, per i vostri SMS, i titoli. Italcementi, Steam Microelectronics e Campari bene. Partiamo allora con le notizie in breve. Dicevo bene, Italcementi più 2,7 come Steam Microelectronics, il 2,3 lo guadagna Campari, l'1,3 Pirelli e Fiat, l'1,2 Fondiaria e l'1% Xor. Parmalat perde il 2,1, Generali l'1,80, Unicredit l'1,60, UbiBanca un punto e mezzo percentuale di calo, l'1,3% lo perdono l'Automatica e Azimut, lo 0,90, Ansaldo, STS ed Enel. Le altre notizie, beh, tiene sempre banco l'oro. L'oro è a un livello nuovamente a record, praticamente ha superato i $1,280 l'once sui mercati, c'è chi inizia a intravedere quota $1,300, siamo a $1,282 come nuovo record assoluto, a dimostrazione delle incertezze. Però è interessante, adesso ve la facciamo ascoltare, la dichiarazione di un miliardario, si chiama George Soros, è ritenuto diciamo, il principe degli speculatori, l'uomo che ha saputo, che cacciò la lira e la sterlina dallo SME, dalla banda d'oscillazione, quando c'erano ancora la lira e la sterlina, insomma, il guru degli investimenti speculativi. Sentite cosa ha detto sul record del prezzo dell'oro. Attraversiamo un periodo di forte incertezza e pertanto nessun investimento può essere considerato molto sicuro. L'oro è in questo momento l'unico bene con prezzi in salita e nelle attuali circostanze la corsa potrebbe anche proseguire. Sarà interessante vedere se ci sarà un calo nelle prossime settimane, poiché solitamente ogni bene che mette a segno nuovi record, subito dopo inverte la rotta e delude gli investitori. Io comunque definisco quella dell'oro la bolla per eccellenza, perché può salire ancora, ma questo non è né sicuro, né può durare per sempre. La bolla per eccellenza, così l'ha definita George Soros quella che secondo lui riguarderebbe il mercato dell'oro. Devo dire che su questo è intervenuto anche l'ex presidente della Banca Centrale Americana, la Federal Reserve, Alan Greenspan, che ha detto un campanello d'allarme la corsa dell'oro. Cambiamo tema, i marchi più famosi al mondo. Anche quest'anno è arrivata la classifica che viene stilata ogni anno da Best, si chiama Best Global Brands, la stile ogni anno Interbrand, insomma i marchi più conosciuti al mondo. Resta saldamente al primo posto al mondo la Coca-Cola come nome, e tra l'altro il marchio a maggior valore del pianeta, si stima che valga 70 miliardi di dollari, poi IBM 64 miliardi, Microsoft 60 miliardi, Google al quarto posto, 43 miliardi, è molto cresciuto rispetto all'anno prima. È scomparsa invece dai primi 100 la British Petroleum, dopo quello che è successo con la tragedia della marea nera nel Golfo del Messico, era immaginabile. I marchi italiani sono solo 3 e devo dire che sono anche messi in basso, perché i marchi italiani più conosciuti nel mondo sono Gucci, che è al 44esimo posto, valore del marchio 8 miliardi, la Ferrari 91esimo posto, 3 miliardi e mezzo il valore del marchio, e Armani al 95esimo posto, 3 miliardi e 4 il valore del marchio. Insomma, Gucci, Ferrari e Armani sono gli unici 3 che compaiono nella parte bassa della classifica. Veniamo quindi all'Italia. Allora, al di là delle 3 streghe, adesso ne parleremo. Il ministro Tremonti oggi ha raccontato al convegno dei giovani imprenditori di Confcommercio, e adesso vi facciamo sentire l'audio, che a maggio, ricordate a maggio cosa capitò sui mercati finanziari, i titoli bancari che crollavano, le borse che andavano malissimo, il rischio di non tenuta dei debiti irlandese, spagnolo, portoghese, dopo quello che stava capitando con la Grecia. Ebbene, il ministro Tremonti oggi ha detto: abbiamo vissuto nel secondo weekend di maggio giornate drammatiche. I colleghi europei dicono di aver avuto paura. Posso ammettere di aver condiviso quel sentimento. Weekend secondo di maggio abbiamo vissuto una coppia di giornate oggettivamente drammatica. Adesso i colleghi ammettono abbiamo avuto paura. Posso ammettere di avere condiviso in parte quel sentimento. Paura, l'orlo dell'abisso, non la fine dell'euro o dell'eurozona, ma il collasso dell'architettura dell'Europa come abbiamo costruito in questi decenni. Beh, insomma, è importante sentire pochi mesi dopo quanto vicini si sia arrivati, per definizione dello stesso ministro Tremonti, al mettere in discussione la tenuta dell'impianto dell'euro stesso, dell'eurozona, e poi un invito ad essere ambiziosi per riuscire a crescere. Dobbiamo essere oggettivamente ambiziosi, come dicono nel linguaggio internazionale. Noi siamo molto provinciali, ma quando vai fuori ti dicono devi essere ambitious, e quindi ambiziosi. Essere ambiziosi significa un po' rinunciare a posizioni rinunciatarie o fatalistiche, come tante volte per la verità uno potrebbe anche avere la tentazione di avere. Cosa potrebbe essere non ambizioso? Ragionare sullo sviluppo, sulla crescita, mettendoci però dentro considerazioni o premesse del tipo: beh, il PIL vero italiano è diverso da quello ufficiale perché da noi l'evasione fiscale è maggiore. È rinunciatario. Il PIL non riflette esattamente l'economia italiana, che ha criteri di produzione e di formazione del valore aggiunto non ordinari rispetto ad altri paesi. Anche questo è un aspetto che viene considerato e potrebbe essere messo in conto, ma non è ambizione. Così appunto il ministro Tremonti. Ancora due rapidi dati, poi partiamo con la nostra analisi delle tre streghe. Allora, a luglio il fatturato dell'industria è fatto meno 2,7, però più 9% su base annua, è però il primo segno meno da febbraio nel fatturato industriale. Gli ordinativi a luglio sono calati del 3%. E poi raggiunto l'accordo al tavolo tecnico sulle nuove reti di telecomunicazione di nuova generazione. Praticamente per 50% delle famiglie arriverà internet, dice il governo, dice il viceministro Romani, l'internet a 100 mega di velocità entro il 2020. Intanto il numero uno del PD, Pierluigi Bersani, interviene sul tema del ministro per lo sviluppo economico, che è ancora assente. Dice: aspettiamo che Mastro Geppetto faccia di legno il ministro per lo sviluppo economico. La realtà è che quando il nuovo ministro arriverà troverà un ministero vuoto, perché di fatto abbiamo disfatto il ministero dello sviluppo economico. Noi con Prodi ci inventammo un rafforzamento di quel ministero perché volevamo fare come la Germania. Insomma, polemiche anche dal PD. Ricordo che al 349-238-6666 potete votare il vostro candidato al ministro dello sviluppo economico, purché realistico. E poi lanceremo anche nella seconda ora di nuovo la classifica. Adesso vorrei partire con il primo tema, ossia che cosa succede sui mercati, ma soprattutto approfittando il fatto che è venerdì 17 ed è il giorno delle tre streghe in borsa, nelle borse mondiali, parlare anche di previsioni sulla borsa. Chi segue questo programma da un po' di tempo lo sa che noi iniziamo scherzando, dicendo insomma, visto come non avevano azzeccato le previsioni le grandi banche d'affari, Lehman Brothers, che non c'è più, Goldman Sachs, la stessa Banca Centrale Europea, sparando cose incredibili, il petrolio a $200 prima del crack, la Commissione Europea che diceva la crisi sì, ma la stiamo già superando nel 2008, la Banca Centrale che temeva solo l'inflazione prima, pochi mesi prima del crack del sistema finanziario mondiale. Allora abbiamo deciso che se tanto valevano queste previsioni potevamo anche allargare lo spettro di chi fa le previsioni all'astrologia. E quale giorno migliore, ripeto, delle tre streghe di venerdì 17 settembre? Allora un grande ritorno che vedo già salutato da molti di voi al 349-238-6666, un grande ritorno sulle analisi. Ce ne sono praticamente 155.000 di maghi astrologi in Italia, un fatturato di 6 miliardi di euro, il settore, come nel settore delle scommesse vale. 10 milioni di persone ogni anno si rivolgono a maghi e indovini. E allora le previsioni di Grazia Mirti, che scrisse un libro, in casa editrice Sole 24 Ore, Investire con gli astri. Buonasera. Buonasera. Mi dica una cosa intanto, poi adesso arriviamo alle sue previsioni che fece con noi, le verifichiamo, vediamo cosa è successo. Ma il venerdì 17 conta qualcosa per voi, no? No, non in particolare no. Anzi, io ho sempre avuto una grande simpatia per il venerdì 17, quindi per me è un segno positivo il venerdì 17. Allora, e queste tre streghe, come si chiamano in gergo, invece lei le vede negli astri, cioè le tre streghe sono la coincidenza, scadono moltissimi contratti, futures, opzioni, azioni sugli indici, per cui tutto si va a condensare in un giorno, è un giorno molto temuto. Ma io credo che effettivamente siamo sempre in un periodo piuttosto minaccioso, ci sono delle cacofonie molto forti in cielo, in particolare la geometria tra Plutone e Saturno e anche con l'apporto di Urano, che sono pianeti molto lunghi, non è certamente ben augurante. Di qui a pensare a strati e desolazioni, io direi che ci siano anche delle vie di mezzo, forse anche magari qualche weekend di paura, come ha citato il ministro Tremonti, che poi però viene superato. Direi che forse mi preoccupa di più la fine dell'anno che non queste scadenze immediate. Allora, lei però ci aveva detto l'11 gennaio di quest'anno, guardiamo come va il primo giorno dell'anno, se la borsa chiude in positivo anche il risultato, diciamo, a fine anno sarà positivo. Allora, la prima seduta dell'anno Milano è andata bene, più 1,3%, l'America più 1,5%, Nasdaq più 1,5%, ci conferma che la borsa che ha chiuso bene all'inizio anno, secondo chi legge e scruta gli astri, è un elemento anche per sapere come chiuderà a fine anno la borsa? Ma io le voglio dire questo, che comunque per la borsa la posizione di Marte è sempre importante e è entrato in un segno non favorevole alla borsa, quindi intorno alla fine di ottobre, metà di novembre potrebbe esserci un calo ulteriore. Fine anno ci sono dei pianeti molto negativi per gli Stati Uniti, quindi chiaramente questo elemento potrebbe giocare un ruolo. Allora andiamo con ordine, perché qui c'è gente che prende appunti, per cui andiamo con ordine. Primo aspetto, allora partiamo dall'oro che fa notizia. Sì, quest'oro che è nuovo aumentare. Ecco, perché? Continua a aumentare perché dal punto di vista astrologico l'oro è praticamente caratterizzato dal segno del leone. Il segno del leone ha subito parecchie angherie nell'ultimo anno, adesso è libero, così come lo è il segno della Vergine, vedi infatti il franco svizzero che cresce e di conseguenza continuerà la sua escalation. No, mi scusi, perché anche le valute hanno un loro riferimento, certo. Ah, non lo sapevo, un loro riferimento negli astri. Certo. E quindi il franco svizzero è Vergine? La Svizzera è Vergine, la sua moneta franco svizzera ha subito delle traversie negli ultimi anni. Ma mi scusi, la vecchia lira che segno aveva? Questa è una curiosità mia. La vecchia lira, ho fatto io uno studio perché me l'hanno richiesto e praticamente aveva una data particolare in cui si erano riuniti e avevano deciso di costituire questa, sì, questa nuova moneta, ma era veramente molto sfigata come... Anche perché non è un termine tipicamente astrologico. Comunque ce ne siamo accorti anche noi quando l'avevamo in tasca. Andiamo avanti, quindi l'oro le dice è nel segno del leone e cresce ancora. E crescerà ancora. Sì. L'euro ha un segno, l'euro? L'euro, certo, ha il segno di quando è entrato in vigore. Quindi chiaramente è entrato in vigore un primo gennaio, un capricorno. È un capricorno, certo. E il tema dell'euro non è stato giudicato non solo da me ma anche da altri illustri colleghi anglosassoni piuttosto a rischio. Però secondo me non è da meno del dollaro, cioè non è che il dollaro stia meglio, per cui direi che tra i due litiganti i terzi godranno, specialmente a fine anno. Allora, dunque, vedo che alcuni dicono, ma insomma, non invitate le persone che truffano i più deboli, ma perché? Se fa l'astrologa, mica la maga adesso, per favore. Ma non ho capito, questo è un bancario che ci scrive, solo quando i giudizi sono di Goldman Sachs o Merrill Lynch che dicono compra, vendi, rafforza il portafoglio, poi magari scopriamo che dentro loro fanno l'esatto opposto di quello che dicono a noi di fare, un leggerissimo conflitto di interessi tra chi fa analisi e il patrimonio che gestisce la banca, quello invece va bene. Vai. Andiamo avanti, allora l'oro lei lo vede inserita, l'euro lo vede in difficoltà e poi lo dico anche agli altri, prendiamo per buone queste cose come prendiamo per buone le altre. Chi è che ci ha azzeccato in questi due anni? Fatemi capire, perché se mi trovate, a parte Rubini, qualcuno che avesse previsto quello che era successo, lo invitiamo tutti i giorni. Allora, mi dica la borsa di Milano e poi le altre borse, e poi se c'è un rischio pesante che lei vede allora, nell'orizzonte astrale. Prego. Allora, la borsa di Milano 6 febbraio 1808 è acquario e quindi avrà una fase più difficile all'inizio del nuovo anno, fine di quest'anno, inizio del nuovo anno, e nel periodo che ho già citato, quello di fine ottobre, metà novembre. Però diciamo che se è sopravvissuta al primo semestre del 2010 possiamo contare che prosegua la sua vita. Ok, e quindi su Milano non mi sembra particolarmente negativa lei? No. No. Dov'è che è molto negativa e quale rischio incombente, visto che Tremonti oggi parlava di quanta paura hanno avuto i vari ministri a metà maggio con la crisi greca, quale rischio incombente vede? Beh, la Grecia ha un tema molto difficile, sarà di nuovo in fase critica a fine anno, decisamente. E poi anche gli Stati Uniti, perché gli Stati Uniti praticamente hanno il 4 luglio 1776 la famosa Sibling Chart 1710 del discorso di proclamazione, e hanno molti pianeti nel segno del cancro, segno che a fine anno sarà avversato da una cospicua serie di pianeti. Anche il presidente Obama, che è un leone, ha Venere nel cancro e quindi anche lui subirà questo problema. Non credo che sia così semplice. Venere nel cancro, la capisco. Che mi manca? Ma che mi manca? Il dollaro, mi dice il dollaro, così chi si sta infuriando si infuria ancora di più. Torniamo a parlare di borsa fra un minuto. Allora, il dollaro è, secondo la mia opinione, legato alla seconda metà del segno dell'acquario e quindi a fine anno sarà in fase critica, esattamente come l'euro. Cioè, dollaro, euro, tutti e due, ho capito, ma uno dei due, ci deve rimettere a un rapporto di cambio, abbia pazienza, io capisco le stelle. Sì, sono d'accordo, però saranno un po' soverchiati da altre monete. Quali? Ci dica quali che le compriamo. Naturalmente ci potrà essere franco svizzero, yen, e poi altre monete tipo la cinese, che già sappiamo che... Allora, l'ultima cosa che chiedono gli ascoltatori, quindi non sono io, il petrolio, ma il petrolio può avere un segno zodiacale? Tutto un segno. Petrolio legato allo scorpione, perché è nascosto nelle viscere della terra, quindi plutoniano, e quindi ci saranno probabilmente degli apprezzamenti intorno a fine novembre, metà dicembre. Va bene, apprezzamenti ulteriori per il petrolio. Noi le abbiamo preso nota e controlleremo quello che avverrà, come facciamo con tutti i grandi soloni della finanza che vengono pagati, loro sì, la nostra astrologa no. Grazie a Mirti. Grazie a lei, tante cose belle. E cosa posso dire? In bocca al lupo, si può dire a un'astrologa? Sì, bocca al lupo. Certo, io vi mando pensieri celestiali. Ah, ci sono alcuni ascoltatori che vorrebbero essere benedetti da non so, da una cosa del genere. No, queste attitudini. Perfetto. Arrivederci. Buonasera. Allora, stanno inorridendo le vestali del programma, come c'è tra la disperazione, come fate a invitare un'astrologa, perché queste cavolate, ma un po' di pazienza, adesso parliamo di cose serie, cioè parliamo di borsa, che è una cosa serissima, come abbiamo capito in questi anni, dopo però il meteo e la pubblicità. di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per parlare adesso delle cose serie, della borsa, non dell'astrologia. Se poi però l'astrologa ci azzecca, lì bisogna poi fare i conti con questo, e allora la borsa. Livia Zancaner, agenzia di stampa Radio Corriere Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera. Meno 0,80% oggi Milano, ma vedo che continuano per i messaggi, ma come vi permettete di portare una cosa così poco seria come l'astrologia nel commentare le previsioni di borse, mercati, l'euro, le valute, il petrolio. Allora adesso però, Livia, aspetta, dammi un minuto perché voglio raccontare invece le previsioni serie di chi viene pagato centinaia di migliaia di euro all'anno per dare queste previsioni. E adesso l'avete chiamata. 7 maggio 2007, Goldman Sachs. La recessione in America è improbabile, le imprese statunitensi però, anzi, registreranno ancora una solida crescita degli utili. Perfetto. Deutsche Bank, inizio 2008, ci sarà una fase mondiale caratterizzata soprattutto dall'alta inflazione. Come si è visto. E poi il mercato azionario, un po' di incertezza nel breve termine, ma prospettive positive per il medio termine. Deutsche Bank, inizio del 2008. Ben Bernanke, il numero uno della Federal Reserve, della Banca Centrale Americana, attualmente presidente. A gennaio 2008, l'economia americana riacquisterà vigore nella seconda metà del 2008, ma ci rendiamo conto, nella seconda metà del 2008. E non prevediamo una recessione in America, infatti il 2008 e il 2009 ha chiuso col segno meno. Chiudiamo con le ultime due chicche perché poi voglio fare il mercato finanziario. Il 5 maggio del 2008 Goldman Sachs, il petrolio potrà raggiungere nell'arco di due anni $200 barile, ovviamente poi crollò a 40. E Merrill Lynch, spettacolare, a inizio 2008 sempre buoni risultati per il settore immobiliare, in calo nel 2007 ma senza l'incubo del credit crunch. Infatti si è bloccato il mondo per qualche settimana, nessuno erogava soldi a nessuno. Va bene, ma queste sono previsioni serie perché vengono pagate tanto, quelle dell'astrologa no, perché sono gratis. Livia Zancaner. Allora, parliamo di borsa. Meno 0,80%, si è temuto il peggio, a un certo momento perdeva molto la borsa. Aumento del premio pagato sul rischio irlandese, misurato attraverso i CDS, i credit default swaps. Unicredit perde il 2,5%, Parmalat il 2,40%, l'automatica l'1,7%. Il quadro generale. Sì, allora, i listini del vecchio continente hanno vissuto, diciamo, una seduta a due volti, nel senso che la mattinata è stata positiva, hanno iniziato poi a limitare i guadagni a metà seduta per poi accelerare al ribasso e risalire dai minimi sul finale. Hanno pesato sugli indici in particolare due fattori: da una parte il dato americano sulla fiducia dei consumatori, che è calato a sorpresa mentre gli economisti si aspettavano un rialzo, e dall'altra appunto i continui timori sul debito sovrano, quindi alcuni i paesi, in particolare l'Irlanda, che potrebbe avere bisogno degli aiuti del Fondo Monetario Internazionale nel caso in cui le perdite delle banche fossero maggiori. L'incertezza quindi è di quanta ricapitalizzazione abbiano bisogno gli istituti di credito irlandesi, no? Un dato che ancora non si conosce. L'Anglo-Irish Bank, potevo chiedere anche quello all'astrologa che tipo di segno zodiacale avesse l'Irlanda, poi ci siamo dimenticati, faccio segno anche ai collaboratori. Allora andiamo avanti, Livia, meno 2,5 Unicredit, perché insomma le banche oggi soffrono un po' di più, Bibanca meno 1,5, Unipol meno 1%, Parmalat perde 2,40, l'automatica 1,70, Generali meno 1,5. Ed Eni perde l'1,2%, Ansaldo meno 1% come Mediolanum e Buzzi Unice, ma anche Unipol e A2A perdono l'1%. Chi guadagna oggi in borsa invece? ST Microelectronics più 2,6, Italcementi più 2,2 come Campari, 1,5% lo guadagna Fondiaria Sai e Fiat anch'essa 1,5% di rialzo, Pirelli più 1,3, Exor più 0,80. Insomma, il gruppo Fiat in borsa almeno viene premiato nell'operazione, no, di divisione. Sì, in realtà ieri, oggi ha recuperato terreno poiché ieri aveva perso oltre il 2%. Ieri appunto l'Assemblea ha dato il via libera al progetto di separazione dell'auto dal resto delle attività e i commenti sul mercato sono stati che l'Assemblea non ha riservato particolari sorprese, anche se quanto è emerso è positivo in realtà per l'andamento del titolo. Rimane molta cautela però sulle prospettive della divisione auto, mentre il mercato è positivo sul valore della partecipazione in Chrysler e sulla possibilità di incrementare tale quota da parte della Fiat, un'operazione che dovrebbe fare da traino, certo, quindi al titolo sul mercato. Allora, una notizia che riguarda in realtà la RIM e Oracle. La RIM è la società canadese che produce BlackBerry, hanno fatto migliorare anche i conti di tutto il settore a partire da ST Microelectronics. Sì, infatti ST ha chiuso un rialzo del 2,6% beneficiando appunto dei conti sopra le attese di Oracle e del produttore del BlackBerry. Oracle ha fatto visto crescere l'utile nel primo trimestre del 20%, e RIM, che appunto che è il produttore del BlackBerry, del 68%. Per quest'ultima inoltre il giro vi è stata una forte crescita del giro d'affari, che è salito del 31% a $4,6 miliardi di dollari. Ancora Campari. Allora, non posso fare ogni volta la stessa battuta, l'effetto spritz, che siamo a venerdì, però più 2% in realtà c'è un'acquisizione, adesso torna a essere serio, una doppia acquisizione importante. Sì, infatti più che dello spritz questa volta si è trattato di liquori, perché ieri appunto il gruppo ha annunciato l'acquisizione di tre marchi nella sì, categoria dei liquori. E oggi è arrivata una serie di giudizi positivi sul mercato. Allora, secondo alcuni le acquisizioni sono state abbastanza economiche, però resta qualche dubbio. Il problema è che infatti tutti e tre i brand operano nel settore dei liquori, che ha dimostrato di essere piuttosto vulnerabile nei periodi di recessione. Infatti, sì, anche chi li beve di solito. Sì, solitamente vulnerabile. Sì. Comunque l'operazione è un'operazione importante, e fai bene a ricordare come, nonostante ancora qualche dubbio, se ho ben capito, Livia, di sovrapposizione, diciamo, nel mercato, però insomma l'ha pagata secondo molti osservatori poco la Campari questa operazione, o meno di quanto potesse attendersi. Fondiaria assai più nel mezzo. Parmalat, perché insomma ieri è ripreso il processo a Parma, ma c'è un collegamento? Sì, ma in realtà sono Parmalat il titolo sta soffrendo da alcune sedute, quindi in assenza di altre notizie, anche perché il settore alimentare oggi in Europa ha ceduto lo 0,46%, quindi in realtà in linea con i listini, appunto in assenza di novità, gli operatori oggi citavano il fatto che è ripreso il processo e che appunto Parmalat è stata definita la maggiore fabbrica di debiti in Europa. Eh sì, sono cose che diciamo pesano su questo. Che è successo a Kerself? Perché insomma, adesso andiamo sui migliori e peggiori in assoluto, è arrivata Kerself a un più 10,5%. Sì, allora, il titolo ha beneficiato quindi di un ritorno di interesse sul settore delle rinnovabili, e in particolare la società ha annunciato la firma di un contratto con uno dei principali produttori cinesi nel fotovoltaico per la realizzazione di parchi solari per un totale di 200 milioni di euro di ricavi. La novità, quindi il fattore positivo è stato anche il fatto che la società cinese fornirà le risorse finanziarie necessarie all'operazione, quindi appunto l'operazione non avrà alcun impatto sul capitale di Kerself. Dopo il traffico invece Unicredito, che però sarà il nostro approfondimento poi nella seconda ora, giustamente alcuni ascoltatori fanno notare che ho dimenticato di citare tra le previsioni cannate quella della Banca Centrale Europea, e ci mancherebbe, quella non fu una previsione, quella fu proprio una decisione presa a luglio del 2008, cioè 2 mesi e mezzo prima dello scoppio della crisi, di alzare i tassi di interesse, perché per la Banca Centrale Europea il problema era l'inflazione e tutto il resto non esisteva, poi si è visto. Comunque, traffico. Allora, Livia Zancaner, Unicredito, insomma, la notizia oggi ha riguardato l'aumento della quota che il Fondo Sovrano della Libia, Libyan Investment Authority, ha operato in Unicredito, cioè dal 2% al 2,6%. Poi avremo, se ce la facciamo, ospite il governatore del Veneto Luca Zaia, perché è furibondo su questa cosa, ci siamo di fronte a una scalata dei libici, e sappiamo che appunto il primo azionista con diritto di voto in Unicredito è la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, però poi ci sono anche altre fondazioni, BlackRock al 4%, la Cassa di Risparmio Torino 3,7%, Carimonte il 3%. Livia. Sì, allora oggi quindi i riflettori sono stati puntati sulle mosse degli azionisti libici, che appunto detengono in due pacchetti distinti il 4,6% tramite la Banca Centrale Libica e il 2,1% attraverso il Fondo Sovrano Libyan Investment Authority. Appunto, secondo quanto riportato oggi dal Sole 24 Ore, sarebbe stato il Fondo Sovrano Libyan Investment Authority a comprare un ulteriore pacchetto dello 0,5%. La Consob sta esaminando la documentazione fornita dai libici, mentre appunto da una parte Zaia ritiene che si tratti di una scalata bella e buona, mentre dall'altra l'ambasciatore libico in Italia continua a ribadire che i libici sono soddisfatti della quota attuale, che non sono interessati a un takeover, quindi a una scalata. Grazie, poi ne parleremo appunto se tutto viene confermato con lo stesso Zaia. Grazie Livia Zancaner, buon fine settimana a te e ai colleghi dell'agenzia di stampa. Allora, restiamo sulle cose serie, visto che l'astrologa ormai l'abbiamo metabolizzata. Qualcuno scrive che sono troppo polemico con i presunti guru dell'economia. No, tanto non sono presunti guru, ma è gente pagata tanto per fare le analisi. E poi, fino al 2008, quando noi andavamo a Davos, in questi grandi convegni, sembrava di sentire parlare più dei profeti che degli analisti di una scienza, insomma, imprecisa come l'economia. Va bene. Italease, che è successo con Italease? Oggi il PM ha fatto una richiesta anche pesante per il crack della banca Italease. L'ha seguito per noi Raffaella Calandra. Voi vi ricorderete, immagino, che insomma viene collocata Italease, è la prima banca specializzata in Italia nel leasing, collocata nel giugno 2005 in borsa a 9 euro, un anno e mezzo dopo valeva già 50 euro. Poi però nel marzo 2007 viene arrestato Danilo Coppola e poi, su richiesta della Consob, emerge un'esposizione di Italease verso il gruppo Coppola di quasi 70 milioni. Poco dopo, un mese dopo, Faenza conferma di essere nel registro degli indagati per il crack Coppola. E poi i rischi legati ai contratti in derivati, è un discorso un po' tecnico, ma insomma, aumentano e lievitano. L'esposizione sale da 225 milioni a 400 milioni, per poi nel 2009 diventare un miliardo. Si dimette finalmente Faenza, Banca d'Italia impone l'azzeramento di tutto il consiglio di amministrazione di Italease, il divieto di continuare a vendere derivati, iniziano le indagini, poi nel 2008 Faenza viene arrestato, lui e alcuni dei suoi uomini. È interessante, così oggi continuiamo sulle polemiche, che cosa ha detto il PM nella sua requisitoria. Raffaella Calandra in collegamento con noi. Raffaella, buonasera. Sì, buonasera Sebastiano, a te e ai nostri ascoltatori. Perché ha detto Roberto Pellicano, se ho ben capito, nella sua requisitoria, oltre ad aver chiesto 5 anni e mezzo, ha detto... Questa vicenda e l'associazione, insomma, Faenza e i suoi uomini hanno fatto più danni di chi? Hanno fatto più danni di una banda di rapinatori. E questo perché, secondo il PM, gli effetti dell'azione di cui sono accusati, diciamo, Massimo Faenza e gli altri 7 imputati di questo processo hanno avuto delle ricadute sugli azionisti, quindi direttamente sulla comunità, quindi hanno avuto un danno sul patrimonio. Questo è stato il discorso del PM, più grave di quello che compie una stessa banda di rapinatori. Ha parlato di un virus che si era innestato nella banca, contagiandolo con questo sistema che aveva creato una contabilità parallela, che aveva portato ad una sorta di un sistema fatto di tangenti private da pagare al mediatore come prezzo per l'approvazione delle pratiche che portavano poi alla stipula dei leasing a cui agganciare i derivati di cui parlavamo. Sì, si deve essere richiamato a Bernard Shaw, insomma il PM, quando dicevo come battuta, è un crimine fondarla una banca o rapinarla. In questo caso, secondo il PM, che ha chiesto 5 anni e mezzo, ha fatto più danni chi ha creato e gestito in questo modo Italease che non una rapina. Dico testualmente, poiché una banca è più difficile che venga percepita come fonte di allarme sociale, questa associazione può essere più dannosa se si prescinde dagli aspetti dell'incolumità della persona di un'associazione che fa 100 rapine. Quando arriverà la sentenza? La sentenza adesso toccherà alle difese, poi la sentenza è attesa nel giro di un paio di mesi, grosso modo, ancora non c'è un calendario ben definito. Grazie per ora Raffaella Calandra. E invece, visto che abbiamo iniziato oggi venerdì 17, il giorno delle 3 streghe, abbiamo iniziato con la nostra astrologa, giustamente alcuni ascoltatori ci hanno fatto notare che la pensiamo come una certa persona. Riunioni che realmente ricordano quelle dei maghi. Tutta la nostra antropologia è fatta da maghi, Apollonio, Merlino, Fausto stesso, pure molto rispettabile, Prospero, il mago di Oz, Harry Potter. Naturalmente c'è anche Mandrake, il mago Vitz, Satanic, devo dire anche il mago Telma. Le riunioni degli economisti sono esattamente queste. Allora, il mago Apollonio farà apparire l'inflazione, ma ne impedirà la trasformazione in deflazione. Grandi applausi e riconoscimenti a questo prodigio magico. Quello che colpisce è che nessuno di questi ha mai chiesto scusa. Nessuno di questi ha mai detto ho sbagliato. Ha sempre sbagliato gli altri. La nostra astrologa invece scusa l'ha chiesta, ma adesso c'è il GR e poi parliamo di Unicredito. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo aver ascoltato il venerdì 17, giorno delle tre streghe per i mercati finanziari, le previsioni dell'astrologa, con un po' di scoramento da parte di alcuni ascoltatori, e dopo aver commentato una borsa che è partita bene, poi è andata molto negativa con le tensioni sul rischio irlandese e poi ha chiuso in calo ma non sui minimi, meno, lo dico perché si fosse permesso di un ascolto, meno 0,8%, l'America continua a essere invariata, e aver commentato la vicenda di Talis, adesso ci occuperemo di Unicredito, dell'aumento della quota libica, ma soprattutto dei mal di pancia che sta creando negli esponenti politici veneti, soprattutto la Lega, che già nel passato era intervenuta pesantemente sulla presenza dei libici nel gruppo Unicredito. Vorrei però, alcuni di voi ci hanno chiesto di poterlo riascoltare, far riascoltare la dichiarazione che ha reso oggi il ministro dell'economia Tremonti, non quella sugli i maghi e i guru dell'economia, quella l'abbiamo appena sentita, ma in merito al rischio che si è corso a metà maggio scorso, quando l'euro continuava a calare e i mercati crollavano ed si ragionava sulla tenuta dei conti pubblici dei paesi più deboli a livello europeo, oltre alla Grecia che ha innescato tutto, ma anche Portogallo, Irlanda e Spagna. Sentiamo Tremonti. Weekend secondo di maggio abbiamo vissuto una coppia di giornate oggettivamente drammatica. Adesso i colleghi ammettono abbiamo avuto paura. Posso ammettere di avere condiviso in parte quel sentimento. Paura, l'orlo dell'abisso, non la fine dell'euro o dell'eurozona, ma il collasso dell'architettura dell'Europa come abbiamo costruito in questi decenni. Questo appunto il ricordo, devo dire, la prima volta che lo sentiamo da maggio in maniera così chiara del ministro Tremonti di cosa rischiò l'Europa a metà maggio. L'euro, volete sapere, a quota 1,30,53 e volete sapere se è ancora valido il toto ministro, diciamo, chi secondo voi dovrebbe essere il prossimo ministro dello sviluppo economico. Sono 36 i giorni da qui in cui c'è un posto vacante al Ministero dello Sviluppo Economico, sono 67 quelli da cui manca il presidente della Consob, vado a memoria, altra carica molto importante. Allora torniamo a lanciare il nostro toto ministro. E stanno arrivando moltissimi voti per nomi anche fuori dalla politica, lo dico, penso al numero uno della Fiat Marchionne, al presidente Montezemolo della Ferrari, al presidente del Confindustria Marcegaglia, Mario Monti, Draghi, tutte persone che diciamo non fanno parte della politica, anche vari economisti. Comunque 349-238-6666 il numero per i vostri sms. Per quello che riguarda il voto su chi dovrebbe essere, mi raccomando, evitiamo le battute e i nomi improbabili, chi dovrebbe essere il prossimo ministro allo sviluppo economico, così poi quando ci sarà confronteremo con i nostri dati. E allora adesso passiamo alla vicenda Unicredit. Che cosa è successo anche in questo caso? I libici, è notizia nota, sono entrati dentro il gruppo Unicredito e hanno praticamente avevano una quota del 7%. Invece, oggi il Libyan Investment Authority ha portato che il Fondo Sovrano della Libia ha portato la sua quota nel gruppo Unicredito dal 2% al 2,6%. E in questo modo la quota totale dei libici, inclusa la partecipazione della Banca Centrale Libica, va al 7,6%. Mentre ieri il consiglio generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, che resta comunque il primo azionista italiano con diritto di voto in Unicredito, pur avendo ridotto la sua quota dal 4,9 al 4,6%. Reazioni molto forti anche questa volta dagli esponenti politici del Veneto, a partire dal presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, che, se ho ben capito, ha detto: siamo di fronte alla scalata dei libici. Il governatore Zaia è in collegamento con noi, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, le chiederei un minuto di pazienza, lei conosce il programma, abbiamo il traffico a quest'ora, il venerdì sera è quanto mai importante, e poi vorrei capire che cosa temete, perché lei parla di scalata di Gheddafi e dei libici in una banca che, siamo intesa, insomma, le due prime banche italiane. 349-238-6666 per i vostri sms. 18 e 17 minuti, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, governatore Zaia, voi come, diciamo, il Veneto è presente nel gruppo Unicredito perché la Fondazione Cassa di Risparmio, appunto Verona, Vicenza e Belluno, anche Ancona, c'entra al 4,6%, ma che cos'è che temete e perché lei parla di scalata? Ma guardi, innanzitutto chiariamo una cosa, che io credo fermamente sulla libertà del mercato, e quindi qualcuno potrebbe chiedersi se è opportuno o meno che un governatore, che delle istituzioni si preoccupino di eventuali scalate all'interno di una banca. Le rispondo di sì, perché questa banca non è una banca qualsiasi. Come diceva lei, dottor Barisoni, questa è una banca che rappresenta, anche se qualcuno si è dimenticato, i territori, visto e considerato che nelle compagini sociali ci sono le fondazioni bancarie, le quali sono esattamente l'espressione delle comunità locali, perché vengono poi nominati dagli enti locali i diversi rappresentanti delle fondazioni. Quindi, se è vero che nel capitale sociale ci sono di fatto gli enti locali, è altrettanto vero che alla banca chiediamo chiarezza rispetto a una politica a favore, che so, delle mie piccole e medie imprese, del territorio, delle famiglie. Allora qual è il problema? Il problema non è il libico che si va a comprare le azioni. Io porrei due ordini di problemi. Il primo, finiamolo di concentrarci sui libici e concentriamoci su chi le ha vendute queste azioni, perché, come ricordava lei, passare una quota del 7% vuol dire che sul mercato c'è qualcuno che comunque ha chiuso accordi con i libici. Mi preoccupa il fatto che il dottor Profumo, persona che io stimo, abbia dichiarato da in più parti che comunque lui non è a conoscenza di questa operazione. Mi preoccupa, perché allora vuol dire che è una scalata bella e buona, architettata non si sa dove. Allora, due domande che vedo che pongono i nostri ascoltatori. Insomma, quando il gruppo Unicredito però comprava banche in Austria, in Germania, in Est Europa, nessuno si era opposto, nessuno ha alzato gli scudi contro l'ingresso e anche, diciamo, le partecipazioni azionarie quando il gruppo si estendeva verso Est. Ministro. Beh, guardi, cioè, non è che possiamo essere così semplicistici, perdonino gli ascoltatori. Cioè, un discorso è andare a fare acquisizioni, un discorso è avere un fondo sovrano. Peraltro, i libici, dobbiamo anche dire che dichiarano, siccome ci sono due componenti libiche, che una non c'entra nulla con l'altra, qui anche qui c'è poco da crederci. Vabbè, facciamo finta che sia così. E noi sappiamo che i libici stanno comprando una nostra banca. A questo punto ci dobbiamo solo porre il problema che, se questa banca verrà scalata, inevitabilmente le fondazioni dovranno porsi un problema di restarci dentro oppure no. Perché comunque loro sono lì non per far business, ma per garantire il business e far lobby per i territori. Quindi il problema non è che siano libici o sia qualcun altro. Comunque la banca, se perde la peculiarità di rappresentare le istanze dei territori, non ha più senso di esistere per noi. Mi scusi, governatore Zaia, ma lei cosa immagina? Non so, degli sbarramenti azionari? Perché finché la banca è sul mercato, uno la può comprare, può essere libico, può essere di Abu Dhabi, può essere un fondo di Singapore. Cioè, insomma, l'unica alternativa è, non so, è chiedere degli sbarramenti azionari. Guardi, lo sbarramento potrebbe essere una giusta cosa, visto e considerato che questa è una situazione atipica. Lei ha ragione quando dice che finché la banca è sul mercato, qui siamo di fronte a un'azienda quotata, uno se la va a comprare. però è altrettanto vero che finché la banca è sul mercato e uno se la può comprare, è altrettanto vero che i soci che ci sono possono anche decidere di mollare l'osso, mi perdoni l'espressione, il che significa che tutto ha ragione di esistere e di essere in funzione della strategia che uno ha. Cioè noi vorremmo che le banche fossero tutte vicine al territorio, alla stregua delle banche popolari, delle banche di credito cooperativo, Unicredit che ha fatto la scelta del country manager, è scelta lodevole, quindi di essere ancora più vicino. Se le banche debbono diventare quelle realtà dove tu chiami per avere affidamento e la telefonata fa il giro del mondo passando per le isole vergini, paradisi fiscali, magari anche per Tripoli, diciamo, questo tipo di banche non ci servono e non servono alla comunità. Abbiamo visto che disastri sono accaduti a livello internazionale con questi tipi di banche. Ecco, lei, governatore Zaia, cita molto le fondazioni, però dentro Unicredit ci sono anche altre fondazioni oltre quella di Verona, Vicenza, Belluno e Ancona, c'è la Fondazione Cassa di Risparmio di Torino e c'è anche la Fondazione Banco di Sicilia. A Cernobbio le faccio ascoltare che cosa ci ha detto 2 settimane fa il presidente della Fondazione Banco di Sicilia, che è Giovanni Puglisi. Per anni abbiamo continuato a dire che Unicredit era un modello da imitare, perché era l'unica banca italiana che aveva saputo andare fuori. E adesso la mettiamo in croce? Che qualcuno si imbufalisca che noi facciamo affari con gli arabi. Ha ragione Frattini. Quando si imbufaliscono, non, a nessuno viene il dubbio che forse si imbufaliscono perché vorrebbero farli loro. Noi abbiamo avuto la concessione in Libia. Grazie, non ho capito. Solo gli arabi vedono cammello, non possiamo vederlo pure noi il cammello. E mi fa piacere che lo vedono gli italiani, non lo vedono i francesi, non lo vedono gli inglesi o gli americani. Ma dobbiamo sempre essere quelli che stanno in fondo alle classifiche? Dobbiamo sempre essere quelli che hanno il maggiore danno? Ma dove è scritto questo? Con Gheddafi? Vabbè. Non è che tutti si sposano con Kim Novak. Qualche volta ci sta pure Gheddafi. Dico, gli arabi, i libici, in Italia ci stanno da una vita. Prima di sposarsi con Berlusconi si erano sposati con Geronzi, dentro Banca di Roma. Qual è stato il problema? Dentro la Fiat i libici ci stanno da una vita. Il mio stupore è capire perché tutta questa attenzione. Vabbè, è ovvio perché ci stavano e quando ci stavano quando la Libia non era fidanzata con nessuno politicamente, anzi cannoneggiava Lampedusa, lo ricordate? Ecco, adesso non cannoneggia, non manda fasci di rose rosse a nessuno, porta cavalli berberi. Però è un clima che è positivo. Allora, governatore Zaia, presidente della Fondazione Banco di Sicilia, anche il dono Giovanni Puglisi dell'umorismo, insomma, è perché non è Kim Novak che non vi piace la presenza dei libici? O perché poi, insomma, il governo di cui lei ha fatto parte, comunque la maggioranza che, di cui lei fa parte, in realtà con Gheddafi, con la Libia, sappiamo che la Lega l'ha vista in maniera un po' diversa, ma ha rapporti strettissimi. Guardi, io le dico, cioè, le dico come la vedo, cioè, sottoscrivo tutto quello che ha detto il dottor Puglisi, però c'è un piccolo particolare che ha dimenticato, che questa non è una banca comune, è una banca che come soci ha le fondazioni e le fondazioni sono costituite da un consiglio di amministrazione nominato dagli enti locali, cioè dai sindaci, dai presidenti di provincia, dalle regioni in alcuni casi. Allora, se questa banca decide di farsi comprare dai libici piuttosto che dai canadesi, è verosimile, è sacrosanto che le fondazioni, ovvero i territori, si pongano un problema di dire ci restiamo dentro, accettiamo questa scalata, che garanzia avremo per i nostri territori? Perché vorrei ricordare che se qualcuno se lo fosse dimenticato, che le fondazioni sono lì a rappresentare gli interessi dei territori, non gli interessi dei singoli che sono nei consigli di amministrazione. Io dico perché le fondazioni bancarie hanno anche 500 anni e nascono dalle casse di mutuo soccorso, cioè del risparmio dei cittadini che danno vita prima alle banche, poi alle fondazioni e tutta la storia che noi sappiamo. Quindi noi ci interessiamo semplicemente perché se cambia la governance, se cambia l'oggetto sociale della banca, basta saperlo, dopodiché ognuno si regola. Sì, un'ultima domanda però, governatore Zaia. È chiaro però che insomma o i soldi li trova qualcun altro, perché o mette dei tetti di sbarramento, ma allora non è più una banca, diciamo. Allora veramente l'intromissione della politica diventerebbe come quando la politica si occupava delle nomine bancarie, e sono anni che nessuno vuole rivedere, o se no, insomma, è lì a compra le azioni chi c'ha i soldi, e in Veneto ce li hanno i soldi? Ma guardi, innanzitutto ricordiamo che Banca Unicredit nasce dalla fusione appunto, grazie alla cessione degli istituti di credito, lei ricordava prima giustamente Cari Verone, io posso ricordare Cassamarca. È vero. Quindi Unicredit non è che viene da Marte, nasce da quelle fusioni, quindi nasce da banche del territorio che danno vita a una banca più grande con uno scopo, perché questo è stato detto a tutti i cittadini, di essere più competitivi sul mercato e dare più servizi ai nostri territori. Guardi, in Veneto Unicredit ha sostanzialmente una raccolta di 15 miliardi di euro e impieghi per 18 miliardi, se non ricordo male i dati. Questo significa dare un servizio al territorio. Se domani ci accorgiamo che i libici decidono che impieghi piuttosto che raccolte si fanno in un'altra maniera, magari che si raccoglie tanto qua e poi gli impieghi li andiamo a fare in Libia, vi diciamo che a noi non interessa più. E vabbè, ho capito, insomma, la linea di far pesare poi dentro. Ma guardi, è una linea coerente dentro le fondazioni, ed è coerente, mi perdoni le ragioni, è anche coerente che un libico che entra in un'assemblea dei soci di una banca e poi ci va anche in consiglio di amministrazione difende i suoi interessi, come del resto lo debbono fare le fondazioni. Mi dice solo una cosa, come ministro allo sviluppo economico, chi vedrebbe lei? Anche Galan? Ma guardi, io non mi occupo della nomina dei ministri. Attualmente c'è un ministro ad interim che è presidente del Consiglio e lo fa bene. Dopodiché sarà presidente del Consiglio assieme ai colleghi di coalizione, parlo di Umberto Bossi in questo caso, a decidere il nome più appropriato per questa partita, che ovviamente è una partita cruciale. Va bene, grazie, buon fine settimana. Buonasera. Al governatore Luca Zaia. Giuseppe, senti la base sotto, siamo in chiusura, i temi della Zanzara. I temi, come al solito, li fanno anche gli ascoltatori, ma noi ci occuperemo di quello che ha detto Veltroni, che ha fatto scoppiare una bagarra all'interno della sinistra, ancora di varie parentopoli in tutta Italia, del turpiloquio si può usare o no dopo la vicenda Crozza Rai. E allora, grazie Giuseppe Cruciani, grazie Barbara Bianchi, Mauro Del Corno per l'assistenza in redazione, da Sebastiano Berisoni l'auguro di un buon fine settimana, ci risentiamo lunedì. Radio 24, la passione si sente.